Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questo episodio speciale della newsletter La macchina da scrivere. Ci tengo a ringraziarvi per tanti motivi. Il primo motivo è sicuramente il fatto di aver dato alla newsletter La macchina da scrivere una esplosione, perché per un tipo di newsletter così specifica veramente avere quasi 700 persone iscritte è davvero tanto, e di questo vi ringrazio di cuore, anche perché davvero io, per rispetto della privacy, non posso fare nomi, però dietro a questi newsletter ci sono veramente grandi professionisti, cioè persone che sicuramente leggono più di un libro al mese, e questo mi ha veramente riempita di orgoglio. Di cosa parleremo in questo episodio speciale? Sicuramente dell'andamento della newsletter. Praticamente possiamo dire che i tre quarti del progetto se ne sono andati felicemente. Poi naturalmente vi voglio raccontare anche che cosa è successo con il racconto che è stata la mia prima esperienza come steampunk e di come poi si è andato a finire nella rivista letteraria di Bologna del Lettore di Fantasia. Chi sono per dire determinate cose? Altrimenti questo audio non avrebbe senso. Sono Annerita Faggioni, sono una copywriter freelance da 10 anni e mi occupo soprattutto dei contenuti redazionali. È un mestiere che ho scelto, è un mestiere che mi ha sempre appassionato e quindi sono contenta della scelta che ho fatto, cosa che forse in pochi pochi possono dire. Ho scelto quello che mi diceva il cuore in un lavoro a cui tengo davvero. E sono già fortunata così, visti i tempi che ci sono. Allora, come nasce questa newsletter, La macchina da scrivere? In realtà questa domanda mi è stata fatta in un'intervista da Giovanna di Troia, nel suo sito, Jodit, un po' di tempo fa, per qualche settimana fa, perché praticamente si stava parlando proprio della newsletter e lei ne ha voluto sapere di più. E quando lei mi ha chiesto perché avevo scelto di fare questa newsletter, come mi era saltata in mente, io le ho detto la verità, cioè le ho detto che mia madre mi aveva preso questa macchina da scrivere e io l'ho vista, ho detto ma quasi quasi ci faccio una newsletter. Però non le avevo detto tutto, perché, e questo è uno dei motivi per cui ho voluto fare l'evento audio, perché mamma non poteva certo immaginare che la newsletter avrebbe avuto tutto questo successo. E sinceramente neanch'io, perché quando ho avviato la newsletter non mi aspettavo nulla. Cioè io avevo solo l'obiettivo di rendere il tutto con un'anima, cosa che vedevo che si stava perdendo nei contenuti. Però dare un'anima e dare approfondimento presuppone tempo che non ero più abituata a dare quando scrivevo per lavoro. Non che per scrivere sul web non serve il giusto tempo, anzi. Però comunque quando si scrive sul web c'è un tempo che viene definito, che è basato sulle scadenze. Anche perché il copywriting è una scrittura che presuppone tecnica, presuppone ricerca, presuppone visione, presuppone cambio di punto di vista, presuppone, questa cosa l'ho detta a un colloquio, pensare al cliente del tuo cliente, al tuo cliente e a quello che si aspetta nella sua testa, anche se tu magari non hai ancora le doti paranormali di leggere la sua mente attraverso lo schermo. E quindi questa newsletter è nata come approfondimento. Non aveva un grosso studio dietro. Cioè, inizialmente io avevo pensato a una newsletter, alla macchina da scrivere di riflessioni e libertà, e a una newsletter pensata da copywriter. Quindi date di mercato, analisi, con target i giornalisti. E quindi riuscire a creare una terra di mezzo, che tra l'altro è una crescita che loro stanno già provando a fare, perché nel momento in cui l'Ordine dei giornalisti nazionale dice che per fare il praticantato da pubblicista è necessario avere una laurea pregressa, perché comunque la situazione cambia, è normale che una persona poi si debba organizzare di conseguenza. Loro hanno fatto questa scelta, secondo me giusta, ma non perché la laurea garantisce qualcosa in particolare, ma perché effettivamente l'approfondimento che viene richiesto adesso da un giornalista è un approfondimento che chi esce adesso dalla scuola non è in grado di fare. Quindi quella è una cosa che trovo abbastanza corretta. Giusta non so, ma corretta sì. La forma mentis del giornalista impone la curiosità, impone la ricerca, impone, però impone anche una documentazione a prova di bomba, che non sempre si può avere, soprattutto quando tu stai raccontando, stai spiegando o stai rendendo noto un evento che si sta svolgendo. Il giornalista si sofferma alla cronaca. Cioè, si sofferma a oggi sono morte tot persone in questo attacco. Ok, perché quella è l'unica cosa che possono dimostrare al momento. Invece, un copywriter è una persona che dovrebbe essere abbastanza empatica per sentire la paura e quindi per approfondire in maniera diversa. Dire sì, è successa questa cosa, sono morte tante persone, però dietro c'erano famiglie, c'erano persone, raccontarla con un po' di cuore in più. Ecco, forse questo è venuto a mancare nel corso degli anni, un po' di cuore in più. Cioè, è una differenza che si vede, cioè, non c'è bisogno che ve lo dica io, è una differenza che se voi prendete un testo di Montanelli qualsiasi è un testo di oggi qualsiasi di un giornalista affermato, perché dovete ovviamente fare la parità di livello, almeno di titolo, quindi lui come direttore e l'ultimo direttore, la vedete la differenza, cioè proprio è talmente evidente che. Quindi questa newsletter nasceva da questo. Nasceva da riflessioni in libertà e poi c'era questo secondo progetto che poi alla fine è andato inglobato, del dare degli strumenti dell'evidenziare degli errori, però non con lo scopo di dire voi avete sbagliato, ma con lo scopo di dire beh, il mondo è così, organizziamoci di conseguenza. Il mondo della newsletter è nato così, però poi si è evoluto. E anche con argomenti che io non mi aspettavo, perché le prime quattro newsletter io le ho scritte con un'ispirazione sul momento, cioè io avevo la newsletter da fare, dicevo qual è l'argomento del giorno, qual è l'argomento che può ispirare di più. Il problema era che io scrivevo sul momento in base agli argomenti che pensavo potessero attirare di più. Ovviamente ci avevo fatto una ricerca sopra, non è che me, cioè, alcuni mi piacevano proprio, altri invece ci avevo fatto un po' di ricerca. Però pensavo alla newsletter su appuntamento. Poi, dalla numero 5, non lo so se l'avete seguita, se non l'avete seguita la potete recuperare tranquillamente. Scorrete tra le newsletter precedenti, la trovate. Dalla numero 5 è successo un fatto. È successo che io sono riuscita finalmente a mantenere la promessa che avevo fatto a Fabio Mossi, ovvero di partecipare al lettore di fantasia, che era un progetto che io comunque avevo visto nascere, di cui ho ancora le prime copie in cartaceo, e c'è stato un momento in cui io sono riuscita a mantenere questa promessa. Loro si occupano di racconti di autori esordienti a carattere fantasy, fantascienza, horror, thriller, insomma, tutti questi generi un po' particolari e relativi sottogeneri. loro poi sono riusciti a creare un ambiente favorevole, dei corsi di scrittura creativa, una serie di iniziative, però hanno dovuto rinunciare al cartaceo. E quindi adesso si sostengono attraverso Patreon. Per questo motivo, poi loro sono passati alla newsletter, quindi sostanzialmente è una newsletter letteraria con autori esordienti che si occupano di tematiche molto particolari. Io ho voluto dare risalto al racconto steampunk perché è stato un racconto che io ho pensato esclusivamente per il lettore di fantasia, cioè solo per quel progetto. E quindi io avevo proprio l'idea che o andava lì o per me il racconto poteva morire lì, perché era pensato proprio a quel modo. Poi, man mano che lo stavo scrivendo, sono andata avanti e ho detto, vabbè, ma questa è l'allegoria di Taranto, questa è l'allegoria di Taranto, perché comunque i temi sono tantissimi, cioè nonostante, tanto è vero, il racconto è breve, tanto è vero che la rivista l'ha pubblicato per intero in una sola newsletter, quindi il racconto è brevissimo, però al centro ha il tema dell'ambiente, che io l'ho sempre avuto, il tema dell'ambiente, dei cambiamenti climatici, anche in tempi non sospetti. Il tema dello scontro tra generazioni, quindi del gender gap, il tema del tempo rubato del lavoro e ovviamente, visto che stavo facendo la newsletter alla macchina da scrivere, ovviamente anche la protagonista Eiko ha una specie di macchina da scrivere che potrete scoprire nel racconto e che è praticamente un modo per comunicare, quindi per inviarsi messaggi in questo universo che è steampunk, quindi è su ambientazione vittoriana. Visione di Taranto nel mondo steampunk, si è creato un mondo in questo racconto dove c'è stato un patto tra chi per primo ha visto le potenzialità del nuovo strumento che stava arrivando, quindi di questa misurazione del tempo come se fosse una moneta, e questi gestori che in realtà non compaiono mai. E quindi i genitori hanno praticamente fatto un'ipoteca sul futuro dei figli di questa città. E questo crea una serie di problemi, a cominciare dai rapporti tra le persone, dal tempo che si dedicano le persone, dai convenevoli, da come anche si ricercano i lavori. E l'ambientazione steampunk consente di calare quelle che sono le invenzioni del nostro tempo, che nell'epoca vittoriana se le immaginavano solo da lontano, di calarle in quello che è l'universo della loro epoca. Naturalmente, se tu devi calare un computer in epoca vittoriana, non puoi farlo come oggi. Devi trovare una strategia letteraria che abbia un senso logico. Non dico il senso che possa avere un ingegnere, ma per dare comunque concretezza a quello che stai dicendo. E quindi, secondo me, secondo quella che è anche la mia esperienza da copywriter e anche la mia blanda esperienza letteraria come persona che a 33 anni ha pubblicato 5 libri, 4, scusate, perché il quinto è già nella testa ed è già quasi in bozza, per quello è il problema. E quindi una persona che si occupa di queste dinamiche deve fare in modo che la questione abbia un senso logico, almeno per i non addetti ai lavori. Perché è normale che un ingegnere ti dice che cosa hai scritto. Però, e quindi il fascino dello steampunk è questo. La tradizione italiana c'è sulla fantascienza, soprattutto sulla fantascienza post-apocalittica. Cioè noi italiani siamo stati tra i primi, dopo gli americani, a parlare di deserto e a parlare di varie problematiche. Poi naturalmente ne esistono altri tipi, la fantascienza infinita, per esempio quella più nota probabilmente anche all'occhio, è quella spaziale. cioè la fantascienza che si occupa delle dinamiche spaziali, quindi il viaggio tra pianeti, i pianeti anche come allegoria della Terra. A livello di cinema, di film, quante ne volete? Probabilmente quello che ha più valenza letteraria dopo i classici Star Trek e Star Wars, Interstellar di Nolan. Interstellar vi dà proprio l'idea di quella che può essere una distopia basata sulla fantascienza spaziale. E quindi alla fine questo racconto è arrivato alla redazione del lettore. Quello che vi posso dire è che c'è stato un momento in cui il racconto era in stallo. Avevo sempre il terrore che qualcosa non andasse bene perché l'avevo scritto in una settimana, perché l'avevo scritto con la macchina da scrivere, perché c'era la macchina da scrivere all'interno, quindi forse non era andato bene, una serie di circostanze. E quindi, mentre stavo riflettendo su queste cose e contemporaneamente stavo facendo la newsletter, ovviamente è scattato della newsletter quando ho visto l'immagine su Pixabay che mi ricordava la protagonista del racconto, di dire nella newsletter forse questo racconto non lo vedrete mai. Perché non ne sapevo niente, non sapevo come sarebbe andata a finire, non sapevo niente. E quindi la cosa mi aveva lasciato un po' l'amaro in bocca, finché a un certo punto è andata che la newsletter è esplosa, cioè la newsletter numero 5 è esplosa, ha segnato proprio lo spartiacque. Più della 6, più della 7, la 5 ha proprio sbaragliato qualsiasi cosa, qualsiasi idea che potessi avere in mente sul progetto. Qualsiasi idea che potessi avere sul progetto della newsletter, la macchina da scrivere, proprio l'ha cancellato e ha fatto tabula rasa. E quindi è cresciuta comunque questa curiosità su questo racconto, anche perché comunque il personaggio mi rimaneva in testa, perché era come un figlio che non sapevo che fine avesse fatto. Alla fine, è arrivata la fatidica email: ti pubblichiamo a metà ottobre. Perché comunque era stata molto sofferta come pubblicazione, io ero sempre attanagliata da questi dubbi. E questo dimostra come anche quando si scrive, una volta che è fatta, cioè non si può sempre stare ad arrovellarsi, cosa avrei potuto fare, cosa non avrei potuto fare, cosa avrei potuto dire, non serve a niente. E una volta che si è pubblicato, si è sempre in tempo a riprendere, perché io avevo scelto che quel racconto sarebbe andato a quel progetto e nulla più. Citazione. Però una persona che ha già pubblicato, una persona che pubblica per conto suo, in qualsiasi momento ha tutti i diritti dell'opera e può fare quello che vuole. Cioè, in qualsiasi momento io posso avviare una campagna pubblicitaria su Amazon, una serie di comunicati stampa solo se la notizia è presente, perché se no ve la cestinano, e dire: va bene, che cosa è successo? Come funziona? Di cosa parliamo? Infatti, quando ho fatto il comunicato, io il comunicato l'ho fatto subito dopo la pubblicazione perché non ero stata avvisata prima. E alla fine il comunicato, così come ci ho mandato una ventina di mail alle testate di Taranto, solo a quelle di Taranto e a una pugliese, e alla fine il comunicato è stato ripubblicato così com'era, quindi senza intervento da parte del giornalista di turno, su una testata di Taranto stamattina, la Blu Note, e su un sito di notizie dedicato alla Puglia. Però la protagonista ovviamente non potevo essere io, ma la protagonista doveva essere la città, perché tutto si basava sull'allegoria della città. Mi informo che ci saranno sicuramente un altro paio di comunicati, uno sicuramente per il territorio di Bologna, perché la rivista è a Bologna, e sicuramente uno generale con più dettagli sul racconto, perché sicuramente chi ha visto il comunicato lo vede che sul racconto è un po' generico, perché ovviamente l'obiettivo è che lo andiate a leggere, ovviamente. Ma non perché Anna Rita è brava, perché Anna Rita vuole fare soldi, assolutamente no, perché io ho devoluto tutta la parte mia al progetto. Perché lo ritengo valido, punto. infatti questo evento speciale inizialmente non era pensato manco per il racconto, perché questo evento speciale era pensato tra le sorprese che io volevo riservare al termine della newsletter. Quindi, tra le sorprese di fine, cioè dopo la newsletter numero 12, ho pensato a una serie di iniziative e tra queste iniziative c'era anche l'evento audio per poterci confrontare. Come finirà la newsletter? Allora, io avevo promesso, e mantengo la parola, che le newsletter sarebbero state 12 e non ci sarebbe stata una seconda edizione. Non ci sarebbe stata una seconda edizione significa cancellare tutti i contatti che ci sono e cancellare la newsletter da LinkedIn. Se dovessi fare una seconda edizione, questa seconda edizione dovrebbe avere qualcosa in più rispetto alla prima, se no la semplice macchina da scrivere non basta. Allora, o si trova questa soluzione per cui io riesco a dare a una seconda stagione qualcosa di più, oppure per me il progetto può finire qui e va benissimo così. Perché non ne ho mai fatto una questione di numeri. Naturalmente, qualunque sia la decisione che prenderò, dobbiamo finire col botto. Perché se no, dobbiamo anche dare la soddisfazione alle persone che comunque mi hanno seguito fino a questo momento. Cioè io ho avuto quote anche cioè su tutte le newsletter io ho avuto oltre il 50% di tasso di lettura. Oltre il 50%. Poi a chi più, a chi meno. E la newsletter è arrivata quasi a 700 persone, perché saranno 687, 688. Ovviamente io non mi conto perché ho i motivi. Però devo essere iscritta perché comunque devo capire com'è andata anche graficamente la situazione. Quindi la mail la devo ricevere. Come newsletter numero 12 ci sarà una newsletter dedicata a Death Note, col quale io ho ricominciato a seguire gli anime 10 anni fa. Quindi questa newsletter numero 12 dedicata a Death Note avrà un più. C'è una newsletter numero 13 dedicata alle comunicazioni di servizio. E in questa newsletter numero 13, che uscirà la settimana dopo della 12, quindi non dopo un mese, dopo una settimana, avrà una sorpresa, una o due sorprese, ancora le sto valutando, una sicura, due non lo so, devo vedere. E al termine di questa chiacchierata, del quale vi ringrazio per avermi seguito anche dall'inizio, vi ringrazio davvero di cuore. Al termine di questa chiacchierata, io ci tengo a dirvi che le storie finte non sono morte. Allora, com'è il fatto delle storie finte? Le storie finte nascono in contrapposizione alle storie realistiche utilizzate dai copywriter per attirare clienti. Loro dicono che sono storie vere, però gli addetti ai lavori lo sanno, sono storie realistiche che servono per creare empatia col cliente. Non servono per fare tante cose, fanno brand awareness. È giusto, è legittimo, è legale, è tutto quello che volete, e quindi giustamente uno si promuove come decide. A questo io ho contrapposto le storie finte, cioè delle storie che sono palesemente finte, false, che però all'interno hanno riflessioni di copywriting vere, che solo chi legge attentamente riesce a trovare. Ho realizzato la prima con l'hashtag le storie finte perché avevo intenzione di portarle avanti su LinkedIn, infatti l'avevo detto anche in newsletter nell'ultima, non mi ricordo se nell'ultimo o nella penultima, mi sembra nella 6. Nella newsletter evidenziai proprio questo fatto che erano storie finte. E ho scritto la prima, Turututu, che è andata benissimo, cioè proprio letterariamente parlando, non perché l'ho scritta io, però per come scrivo io è stato un salto di qualità. È andata in 5 puntate, sempre nel giro di una settimana su LinkedIn, sul mio profilo. Chi l'ha voluta seguire ha potuto seguire tutte le puntate. Chi se la vuole recuperare trova l'hashtag le storie finte e se la recupera, senza problemi. E avevo utilizzato come copertine delle immagini generate con l'intelligenza artificiale basate su un paragrafo del racconto. Quindi, per esempio, la puntata numero 1 aveva un paragrafo, io ho preso quel paragrafo e ho fatto l'immagine sul servizio di immagini generate con l'intelligenza artificiale e ho fatto così per tutte e 5 sostanzialmente. Al termine mi sono resa conto che LinkedIn non era adatto come media per fare questo tipo di operazione, perché anche se tu metti link da sotto, anche se tu fai di tutto per renderlo, le puntate si perdono perché non ci sei solo tu al mondo. Questa è una cosa che si dimentica spesso, non siamo soli al mondo, ci sono anche gli altri e quindi è importante anche saper creare il giusto feeling. E quindi questa situazione mi ha fatto capire che il medium non era quello giusto. E quindi il prossimo racconto, altra anticipazione, si chiamerà Spezzagambe. Spezzagambe, non so se uscirà su LinkedIn come la precedente, ne dubito, però vediamo. Oppure se inserirla come base di partenza per altro. Vedremo. Vedremo perché al momento non lo so, cioè, detto molto chiaramente. Detto questo, io avevo finito gli argomenti di questa newsletter, avevo messo un'ora, ho seguito un corso su Twitch molto interessante da parte di iBob, iBob si scrive se lo volete cercare sia su Twitch sia su YouTube, realizzato in collaborazione con l'Accademia di Fastweb, la Fastweb Digital Academy. E praticamente sto pensando anche di fare qualcosa di Twitch, però collegato al piacere di scrivere, non alla newsletter. Solo che Twitch ha la questione della diretta e ha la questione della diretta video con appuntamenti fissi precisi. E quindi questa cosa mi blocca un po'. Però ecco, io ho una mezza idea su che cosa fare anche lì, ce l'avrei in termini di letture, in termini anche di compagnia mentre le persone lavorano, che poi è anche il motivo per cui ho scelto l'evento audio. Tutti lavoriamo e quindi è anche giusto che ognuno possa seguire le sue passioni o il suo lavoro e contemporaneamente formarsi se lo ritiene opportuno. Però prima di passare a Twitch devo avere la certezza di un po' di cose. Cioè, devo avere la certezza che sia seguito, di come viene seguito. Anche questo può essere un'idea per la newsletter, come sorpresa della newsletter, però prima devo farmi due calcoli, come di solito avviene tra i professionisti. Vi ringrazio davvero di cuore per aver seguito questo evento audio come primo esperimento per la newsletter alla macchina da scrivere. Se avete bisogno di mandarmi un commento, di farmi sapere, anche di esprimere delle criticità, perché comunque fa parte dell'essere umano sbagliare e correggersi. Siete naturalmente liberi di mandarmi un PVT, di mandarmi un messaggio, di dire qualsiasi cosa, nei limiti ovviamente della situazione.